qua il binario 10, c'è qualcuno? Ti chiede la sanzione. Verso binario 10. Bubu. Andiamo, dove andiamo? Vabbè, il binario, non c'è la stazione. La stazione Chirivani. Sì, che non è quello andato così, ricambio a Chirivani. Infatti. KK. E all'ombra, Luca, e tieni conto già. Internet era a posto, stavo facendo quella connessione là che hai visto, sto usando appunto il 43. Il 43 però a spiedale spento, a spiedale spento. Cosa c'ha il 43? Non ti ho capito. Il microfono. Ah, ma il 43 saranno bene. Sì, quello sì. Sto usando l'MC43, il microfono, capito? Col pedale staccato però, spento. Adesso te l'ho acceso, bene, va, così non brontoli. Picchiato. Facciamo la musica, è detto al minimo, lì. Cappa, aspetta, te lo stacco e ritorna normale. Cappa, Mickey Gain, sempre a due. Troppo forte la radio al secondo passaggio, è troppo forte, non si capisce bene. Io dico, come chiarezza è meglio normale, però quando pompi se non regoli va bene. Oh. Abbassala appena, se non l'abbasso io, la. Oh. Hola. Ehi, già, Gianni. Sì, stavo parlando di Attica. Allora, guarda un po' se così in basso va bene o devo abbassare ancora. Vado a vedere, 1, 2, 3, va meglio? Abbassando il volume io va bene, che io... sono lui. Come vuoi, io qua mi vado ad abbassare, sono 4 potenziometri del pedale, capa. E niente, se devo abbassare, abbasso ancora, se devo aumentare gli altri, bassi, medi, dimmi tutta. No, io ho regolato il volume adesso, l'ho abbassato e ti sento bene. Si sono registrato. Ehi, anche a te, Bubu. Fammela sentire la registrazione del commesso. Non parla più adesso, non parla più. Infatti dicevo, ma cazzo cosa c'ho? L'ecco c'ho, Bubu. Ti sono sentito, entrava la voce nel cotometro, allora c'è l'ecco. Era lontano, Sì, il segnale non era forte. Forse ci voleva far sentire come si va. Accorda. Per carità. Guarda, così ce l'ho, il microfono praticamente ce l'ho appoggiato alla gamba. Vedi? Ehi, sì, va, si sente bene. Così è staccato. Claudio non è entrato. Boh, non so. Volevo sentirlo. Non entrerà, Deve essere questa tipo quegli animali, come si chiama? Gigi Cricetto, come c'è lui io? No, io c'ho un pappagallo che ripete, però ripete veloce, capito? Ma io non si comprende nulla. Aspetta che metto Gigi Cricetto, ti faccio parlare perché lo faccio sentire. Parla lui a vedere. Luca. Non si comprende nulla, però aspetta, parla io. Aspetta, che ho messo lo squelce. Prova già, io. 1, 2, 3, prova. Sentito? Sì, ma non si è compreso nulla. Magari il microfono sente male, qua già lo dice, non è compreso nulla, se non è compreso nulla, detto. Dai già. Ho fatto lo scherzo a un amico una volta, l'ho messo dietro una fotografia, no? Chi è il tuo padre? E lui gli ha fatto, chi è il tuo padre, capito? Uia. Aia, gna gna. No, io ce l'ho a Gigi Cricetto. No, questo è un pappagallo. E facciamo scavitudine al pappagallo e ti do a Gigi. Così non mette il pappagallo a giugarsi. E poi è andata la gabbia. Ma è finita a vedere il casino, E lasciati giocare, ci stavano registrando. Cosa? Che ci stavano registrando. Fatele registrare, vuol dire che siamo bravi. E poi ci facevano sentire la registrazione. Fate tre cazzo giochi, lei che non mi. Sì, vabbè, tante non lo sanno, non si può fare. Sì, tante cose non si possono fare, eppure lo fanno. Daddy, va bene, dai. Io sono entrato con Fabio, l'ho pronto fuori, sentiamo la cappa. Sto uscendo, sì, sto uscendo bene, a posto. E io? Va bene, questa è la radio tua, Luca, a te c'è la mia. Già lo so, cosa ci vuoi fare? Hai visto? Io ci metto poco. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo, e niente, sono stanco molto, l'ho pronto fuori. E niente, sono stanco, dai, ci sentiamo dopo, ragazzi. KK 1 2 3 1 2 3 1 2 3 KK. Oh yeah. Con cosa stai uscendo? Allora, questo è il MC43 con quell'impiantino che ho fatto, hai visto? E con il pedale a più fatto. In questo momento è 40 cm, il braccio appoggiato sulla gamba. Già va bene. Ti ascolto bene anche con questo. Oh, oh, oh, oh, oh. 10, 15, 20 watt e 40 modulati, già va bene, dai. Ok, ancora fredda perché l'ho accesa, ghiacciata, l'ho accesa da poco fa. Appena sono arrivato. Dai, ci sentiamo dopo però, perché davvero mi faccio una doccia, mi sistemo un po'. Ci sentiamo dopo, vai già. Ok, allora, ci siamo qua, allora. Se Luca resiste, se non si dà da prima. C'è un pedrome tu prima. E non devo finire che non ha giù mi duda. Dopo pranzo non ho riposato, però stanotte un po' di più, che ho fatto l'iniezione prima di andare a letto, un po' di più ho dormito. Sempre muscoli? Sì, ma l'ho finito, cazzo, ho finito quattro scatti. Cazzo, bobo. Muscolo indipendente se ti intendi. Vabbè, la mia di mi tocca fare. Bobo, dai te. Però si vede davvero, la registrazione è bassa, molto bassa, deve essere che non esce forte. Tu ti hai risposto a quello là? No, ancora no. L'ha già scritto Buru che l'ho risposto anche in inglese. Ma faccio il ricontrollo. Pezzo di euro, rotto in balle, sti inglesi di merda, mi serve quella. Con l'attrezzo, vabbè, sollecitalo, dai. No, niente ancora, nessun messaggio. Cerca, cerca ancora allora, vai. Un cane da filtro. No, sto cercando una cosa che mi serve per una radio e l'ho trovata negli Stati Uniti e sto coglione, non spedisce in Italia, adesso dimmi tu. $121, cazzo, la bagaccia, ragazzi, ha fatto. E non risponde, e magari non ha visto il messaggio ancora, magari lo vedrà dopo. Non so, sta trattando Luca, lui c'ha il computer attivo. Mi serve, invece, aspettiamo se risponde, sta imbecille. Se si riuscivi. KK, va bene, stacco questo, attacco lo studio, aspetta. Cosa la giù di fare, la fotografia di Dina? Già, ce lo sta facendo pagare a prezzo d'oro, sto cazzo di coso. Il commutatore, $121, fuori male, più 30 legati di trasporto. $151, ammazza, te ne varia. Cos'era? Un alimentatore? No, è un commutatore DSP per una radio che ho io particolare, capito? È una cosa supplementare che ho provato e gliela voglio attivare. Ah, ho capito, va. Asciugavido. E qua non si trova in Italia? No, no, no. No, non si trova. Non si trova. No, vendono un cazzo in Italia. No. $151, fuori amari, non dico. Scriviglio, pagamento anticipato, pagamento immediato, pagamento come cazzo vuole lui, basta me lo mandi sto coso. Il mio amico non trema, soldi subito e freschi. Ammazza di nervale. Inglese di merda. Vabbè che sarà il lutto per la regina. Ma chi su, Leonor? Messaggi neanche adesso, ma mi arriva la notifica quando mi è capito, quando c'ho dei messaggi, non lo so, appena mi risponde, già li avrà visti, sì, gli hanno già mandato due, al primo già ha risposto subito, ma mi ha scritto che non parlava inglese. Così è, vabbè, se vuole le parlo in algherese. Oggi, mamma mia, ragazzi. C'è un'imbazzinata al portafoglio, a parte la bella radio, non me la sono tenuta. Ma ha fatto pranzo, minchia. Che gliene ha fatto di vento? Cosa? Che gliene ha fatto di vento, detto? Che gliene ha fatto di vento, sì. Poi che pure, ma io già non ho paura del vento qua. Non sono in basso oramai. Ma era maestrale quello di oggi. E ancora maestrale, è calato, ma è ancora maestrale. Io sto prendendo quel portamicrofono della Media Globe. E che portamicrofono è? Quella foto che mi hai mandato? Non è che cosa, il microfono faccio i bonichi. Il microfono si andrà a bagno. Perché io la ci metti? La zebra, come si chiama? La giraffa? No, non metto io lui. Troppa roba, metto le balle lui. Non metto niente, no? Fanno bene così, che sono giù oltre il microfono, sopra il tavolo. C'è la doccia! Sì, l'ho regalata a Luca, la giraffa, per metterci il microfono da studio. Ma è usata, lo già, no? No. Ah, vanno bene questi microfoni. Beh, io vado a farmi la doccia, così mi sveglia. No, è basinata a pranzo, Gianni. Pagato una barca di soldi. Ah, mi hai mangiato un mese? Sì, ho mangiato benissimo, ma che cazzo. 170 euro in 4, ammazza, nelle varie. Io il giorno del mio compleanno siamo andati a Porto Torres, io, Liliana, i miei due figli, siamo andati in 4, 185 euro pagati. Non ci può mancare la stanza. Vabbè, pazienza, sono rimasto un po' indietro comunque. No, almeno non ci può andare, no, pranzo, non c'è niente da fare. E vabbè, faccio una giornata diversa, io. A noi ci ha servito molti antipasti prima, erano buonissimi, tutti buoni, tutte tartine, tutta roba così, antipasti di terra di mare, insomma, se abbiamo mangiato bene, la fregola, frutti di mare, tutte queste cose qua. Sì, anche noi tu. Ci si fa male. Va bene, dai, la famo una boccetta, ci sentiamo dopo. Niente, dai, ok. Piedi bella, cavalletto senza piedi, qualcuno mai di pratica. Ah, bruttotto che non sia altro. Mi è caduta la moto a me perché la senza piedi bella, me la presi. Andata a fare da Giulio di legno. Mi sono dimenticato, ho messo a fuoco il giardino e si è rotta la trivella, si è consumata. E tu pure che? Non mi sono ricordato, pensavo che era di ferro, invece era di legno. Sono sazio, vai. Già. Oggi mi sveglio, grazie, a dopo ragazzi. Vai Lu. Va bene, a dopo, avanti Natali. Buonasera a tutti, così non sbaglio, vai. Ciao classe, devi andare. Ci sentiamo alle prossime, allora dai. Io mi rimango un pochettino qua. Poco da sbagliare, Natale, siamo in due, siamo io, Luca e tu. E non ti basta, poca gente meglio festa. Quello è vero. Allora, diglielo a Luca, questo qui non lo sanno. Perché lui è abituato ai festini che faceva lui, che erano tante persone, tutte nude. E allora, è un pervertito questo Gianni il Caldo, che... Poi c'ha lo scoiattolo che ripete, com'è già, del virus. Boh, Gianni si è dormito. Mi doveva arrivare il 13 quel tasto e mi arrivi oggi. Bellino comunque. Già ti ho sentito dal canale 20 facendo telegrafia, non so io se te ne devi andare lì. A me se fare telegrafia, ma stai scherzando, guarda che non ero io. Mi è arrivato oggi, mi è arrivato e lo devo collegare ancora all'oscillofono, figurati. Gianni l'attacca al megafono invece. Gianni! Cazzo, quando si trovi da voi, pru. No, non mi trovo, sono sveglio, dai. Sono sveglio, ovviamente io sono un ragazzo sveglio, atta lì. Dai, dillo che sei un pochettino pervertito, che se ti chiamano Gianni il caldo vuol dire che c'è un motivo. Perché la voce è calda. Ah, per quello io credevo che era per altre cose. Dicevano Gianni il caldo, la voce calda della frequenza. Ah, per quello, e io non ne sapevo, no? Devi scusare la mia ignoranza. Ah! Oh, yeah. Caldo, già sono sempre stato caliente. L'ha detto già, non ti ho capito. Che già sono stato sempre caliente. E anche io quando avevo 20 anni ero sempre caliente. Adesso sono morto invece. Adesso sei calante. È calato e non viene più fa nessuno. Vabbè. Acconsentiamoci. Hai visto intanto Gabriele Garco? Hai visto la fine? Cosa è successo? Ma l'avresti mai detto? Purtroppo ognuno ha le sue idee. A me gli ambiasini di femmini sempre, la verità si dica. Ma come fai a dirlo, Natali, se non lo provi? Non lo puoi dire, dai, diglielo già, tu che hai esperienza trentennale. Vabbè, ma stiamo invecchiando adesso, dai. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Sei tu che trentennale, diciamo quarantennale. Quando poi, divido già, quando poi scende in giù, allora bisogna fare altre sponde. Cazzo, non usa più Luca che ti viaggia la garambola pure a te. Eia! Ah, dopo ve l'hai da dire la andriga. Ecco. Io non siate scurrili, parlate bene, che poi dicono che io sono maleducato, che parlo male. Stiamo parlando sotto metafora, parolacce non ne stiamo dicendo. Va bene, là. Se non mi faccio il ruio e da voi mi ne cappa buco la risa. Si sa quanto sta vedendo il concetto. Non c'è, meno male, no. Se no questa la avessi dita, diglielo, Natalino, diglielo. No, è a Carugani, è andato a portare il cane, nonno. Chissà che la torna, allora si fa un bel giro e così siamo tutti a posto. Oi, oi, oi. Mi si è rotto un cassetto, mi sono ammazzato a aggiustarlo. E che non si è rotto, la guida? No, mi sei tutto dimontato, a chi invece sei di legno vero era di trucciolare, il legno che piace a Giulio. Sì, vabbè, ma si perdono in queste cose, anche dove c'è il legno vero, qualche cosa di compensato sotto in terra la mettono, Sì, vabbè, catamanicchio, una cosa che non si budia vedere, ha ragione Giulio, che non servono a niente queste cose qua, mamma mia. Vai, da come si chiama? Il mondo convenienza è diventata la mobilia nuova. Altro che mobilia nuova, c'ho la schiena a pizzi, c'ho tutta la gira consente chi sa amare a Zucchi. Succede, anche quando sono mobili di legno vero si possono rompere. Io per dire c'ho l'armadio quello scorrevole in camera da letto e praticamente ne era uscito dalla guida e almeno mi arriva lo sportello in napo. Gli arrabbiavi uno, chi subisce? E pensassi che due altri di quei due altri grandi, ma enormi. E qui se di legno vero pesa, non è come te il briciolare, no? No, no, legno vero, comprato da Pidu. Non uso mio. È più forte questo ripiano qua che ho fatto, questa mensola gigante, che è quel cassetto. Almeno questo è più. Ma non tanto bisa. Cazzo, tremendo è questo. Io ho dovuto comprare le staffe a misura, perché quelle che c'erano me ne le ha stracciate di quanto è pesante. E i tasselli pure lunghi ho dovuto mettere. Ehi, ehi. Quando andava il tempo le cose si rovinano, c'è poco da fare, bisogna sostituirle, basta, e così non ti ammazzo. E chi c'è poco ma sicuro. Ci sono, per dire, molte persone che preferiscono comprare a modo convenienza, che dura 2 o 3 anni, dopo dice a Maribara, ma esempio i mobili nuovi. Ma già è sempre meglio cambiare. Io lo so. Sono le 6:25. È l'altro orologio che aveva, ah no, gli assuntini. Cavagara. Luca. E Luca che fine ha fatto? Volevo sapere se l'aveva spedito quell'apparecchio. Quale, il tuo? No, il suo. Era un bel apparecchio, quello già mi piace. L'ho visto funzionare ed è di lusso, va bene. Effetti 450. Ehi, quello è bello, mi piace un bel apparecchio. 450 D, ce l'ho anche io. Certo che funziona bene. Sì che l'ha spedito il suo. Ehi, ha spedito, Natali spedito. Cappa. Dovrebbe arrivare lunedì. Dovrebbe arrivare lunedì. Hai alternato, Luca. Cazzo, sì, c'è alternato. Ancora già. No? Schiacciare senza parlare. Quale c'è della tempo? 60, siamo 60. No, non si sente proprio. Ma se mi dice di abbassare, quello. Mamma mia, ragazzi. Ma dove ce l'hai attaccato sto 60? Adesso ho attaccato al pedale, aspetta. Cazzo, lo guarda, non te l'ho detto più, stai rischiando tu di buttarlo via, forse sa. Cazzo, attaccati tutti gli altri microfoni a questi cazzo di pedale, mixer, e 60, lascialo libero, libero, da attaccare solo alla radio. Cosa ne vai a attaccare un 60 al pedale? Che è un microfono, cazzo, che pompa, che misericordia, boh, stai uscendo male. Minchia, cazzo, alla fine faccio il circuito tra attaccare a un gatto sul microfono, non l'avevamo altro. Detto, attaccati tutti i microfoni che vuoi al mixer, ai pedali, e 60, tienitelo libero, cazzo, già è un microfono del cazzo, delicato che non viene bene a dirlo, in più, connessioni, controconnessioni, jack, contro jack, vabbè, vedi tu, roba tua, arrangiati. Lo fa solo qualcosa però, col pedale, capito, col suo pedale lo fa, che tocca, adesso diretto. Non ho capito quello che c'è il pedale quando c'è il suo circuito di amplificazione, non ha problemi di niente, tienilo libero, pedale, attaccati gli altri microfoni che devi fare le prove. 60 non è un microfono da giocare, basta, niente, culo. Uscendo, sto, sì. Stai uscendo, ma c'è un rumore sotto, lo c'è? Un rumore sotto? E si è attaccato diretto? Sarà la ricevitore, aspetta. Ah, si lo sente ancora. Ecco, spento il ricevitore. Oh, non è una fermata, è qualcosa che si sta portando appresso. Cosa c'è attaccato? Il mixer acceso, cos'è? Niente. niente, completamente niente. Però adesso lo spengo anche il mixer. Il mixer è spento, pedale è spento, che vabbè, nulla, nulla, non so cosa senti, boh. E adesso niente, quando hai spento il mixer, ha ragione Gianni, tipo un rumore d'alternata, qualcosa del genere. Adesso sei pulitissimo. E 60, usalo pulito, cazzo. E allora, aspetta un attimino, riattacco la spina del mixer, vedi un po', a parte le campane. Natali, sto uscendo, ma ti stacchi la spina, non si sente più. Che strano. Allora, adesso la spina è staccata del mixer. Cappa. Sta andando benissimo. Confermi, Natali, Gianni sta uscendo. L'ho sentito. Sì, ma vai, andando bene. Si attacca il mixer, si intende, pare una nave. No, perché il mixer era solo acceso, capito? Non c'era attaccato niente, neanche al mixer, non so. Invece poi ti dica, tipo ti ha preso questo evidentemente c'è qualche rientro di RF, se vuoi ti dica, spegni il mixer e tutto normale. Aspetta, allora stacco il microfono da studio dal mixer, però mi sembra strano perché se ancora non c'è alimentazione, adesso attacco la spina del mixer, vediamo un po'. Ah sì, questo lo sento anch'io adesso in cuffia, quando attacco il mixer, è vero. Staccato, attaccato. Può essere sicuramente l'alimentatore del mixer. Adesso li metto i ferriti. Tappa, va bene. Adesso lo stacco, aspetta, ecco. Sì, allora da quello non c'entrava niente il pedale. Tappa. Però lo porti a prezzo. 60, lascialo libero, lui non ha bisogno di un dollaro 60, lui. Tanto la modulazione che hai con 60 libero, non ce l'hai con quando lo attacchi, no, non ci hanno nulla. Aumenta un po' più di amplificazione e bagoggia, poi faccia ruga braienti. 60 lasciatelo libero, te l'ho detto, perché è un microfono eccezionale, funziona benissimo con quella radio, non ne ha bisogno di niente. Capito? Gli altri microfoni poi puoi fare tutti gli esperimenti che vuoi, ma 60, lo dico io, ho già sperimentato, da 40 anni che tabacchi, non vanno da va. Vai Natali, torno subito. Io sono andato a aprire la porta che mi ha sfumato la 50. Oh signor. E infatti ha ragione Claudio, il 60 da caro visto un di diversi attaccarli. Ma se il microfono vi attacca come TV. Sì, era quello, era, adesso vabbè c'è l'alimentatore, dell'alimentatore. Che becchetta. Sì, bisogna che gli faccia quel lavoretto all'alimentatore. Lo brava gli di rugarruzzo di vozzo, come ho fatto al pedale lo stesso. Cosa? Che c'era il canabariando che ha sentito uno che ha suonato. No, stavo dicendo che devo fare lo stesso lavoro che ho fatto al pedale, metterli i ferriti. Infatti il pedale non fa più. Ah, vale, fendiglio, però. Deve essere non infiltrato questi cavolo di alimentatori. Sì, infatti. Oh signor, molto l'hai venduto quell'apparecchio là? 4,20, Natali, ma già hai visto il completo di imballo, manuali, è mai usato praticamente. Io ho capito. Era un bel apparecchio. Guarda che ce n'è uno altrettanto nuovo, veramente, anzi forse più nuovo anche. Per recente, non più nuovo, su cosa? Mi pare 4,50, mi pare che... Dove hai detto che... Su Facebook l'ho visto, su Facebook. Aspetta che lo cerco. E quando dicevi non la ciappi, non lo sai. Allora non la ciappo, vabbè. C'erano gli imballi comunque tutto, nuovissimo. Poi ce n'era uno, un altro, perché lo stavo parlando con l'interfaccia, mi pare che era 580. Ehi, costa, non mi sembra così. Anzi, tu l'hai dovuto pensare troppo bobo. Funzionava bene, non è che l'ho dato poco, funzionava benissimo, potevo darlo di più, sì, quello sì. Gianni! Gianni è uscito, Sì, Lomito si sarà, Lomito, in catalessi. No, di subire, scendi. E lui, Andiamo, vai, andiamo. Allora sai che non riesco nell'RT 95, non riesco a far funzionare i ripetitori, perché hanno il tono e non riesco a... Glielo metto questo tono, però non funziona, mi blu. A quali punti? La scena va mo buoni. E l'R7 Alfa, per esempio. E quanto lo stai mettendo il tono dell'R7 Alfa? Non lo so a quanto era, ce l'ho nel telefono tutti i corsi. Aspetta, lo dico subito a quanto l'ho messo. Neanche l'R2 Alfa sono riuscito ad azionare. Dio, ma quanto l'ha messo, ora li hanno cambiati tu. Ma quando ce l'hai questo elenco? Aspetta, ce li ho tutti scritti, un attimo. Allora, 88,5. No, che cosa 88,5? L'R7 Alfa. Prova 74,4, ma io non me la metto sia 88,5 o 74,4. E così dice. Montorraso Sassa, rivie. No. No. È a Ittiri. A Ittiri. Beh. Questo di Ittiri è lo stesso, mi sa. Ed è 74,4. No, c'è più a Monterraso, c'è solo a R0, metti 74,4, vedi che funziona. Bravissimo, L'R2 Alfa a Cabo Aspro, Ah, ma Fiume Santo, L'R2 Alfa a Cabo Aspro, è 88,4, mi fa 0,5. E là non sono... La faccio passare! Non sono aggiornati questi, là, diciamo. No, non sono aggiornati per niente, sono tutti fasciuti. L'R7 Alfa è a Ittiri, lo gestisce l'area di Porto Torres, Antonio è a Ittiri, ed è 74,4. È a Giugarino. L'R2 Alfa è a Fiume Santo, è 88,5. Ok, adesso mi disegno, aspetta. È così. Vediamo se funziona. Sì, già funziona. Perché io li sento, Cata, però non riuscivo a... Mi Te lo sto citando io. Ah, tu sì. Prova a citarlo tu, vabbè. Ferma. Ma come fa Natalino a citarlo, classe, non ne ha di quelle radio lì, c'ha il ricevitore, come fa? Io non lo so. Ah, il ricevitore c'è. Allora te lo cito io. Se non ne può usare di quelle radio, come fa a andare in trasmissione? Aiuto. Pensavo avesse qualcosa, qualche portatilino, non so, vabbè. Hai sbagliato, chiedo perdono. Cos'è? Non ho copiato che stavo al telefono. No, Luca ha detto come fai a citarlo se non ne hai di quelle radio. Vabbè, pensavo che avesse qualcosa. No, stavamo provando con uno che ce l'ha, non ce l'ho io, no, però non riuscivamo a fare niente. Uno è autorizzato tra l'altro, perché c'erano i toni sbagliati. Certo, te l'ho detto. Montorraso non c'è niente, c'è solo R0. R7 Alfa è a Ittiri. R2 Alfa è a Porto Torres. Gara, gara. Prima sì, prima erano così le postazioni. C'è anche a Montalvaro, adesso non c'è più niente. Io ho capito. Capito, zio. Oh, io l'ho messo. La notte brodino di pollo. Io ieri ce l'avevo. Ma non te lo mangio niente, mi sono buffato i cicazzi. Vedi che hanno mangiato. Poi ho voluto sono tutto a mal di schiena, mamma mia. Stavo aggiustando un cassetto che mi si è cavardato. Boh, dimmi tu. Sì, anche l'altro giorno a me una cerniera, un armadio, boh. Prima mi c'è bideccia, mi si è tesseriero. Beh, beh. Che macello, beh. Mi fa male veramente la schiena. Vabbè che lo butti bulumari quando ti racconti la roba. Bisogna stare attenti anche nelle posizioni in cui uno ci mette, se no così. Io adesso se non mi inchino bene mi fa male subito la schiena, non posso fare più niente. E infatti. Ma devo subito. Tu fa veda Barocca, tu sei sempre col cane, fa veda, di qualcosa. Luca! Luca, se sei tu c'hai l'alternata. Io non so. Gianni non è tornato, no? Negativo. No. Non da segni di vita. E Giulio, non si è più sentito lo stesso. E infatti. Giulio Napogarana, vuol dire, magari già cucendi. Quello sicuro, quello sicuro, allora. Magari è andato a picchiare un gane, ma neanche, è presto. Che ore sono? Ah no. Non è presto un tubo, magari è andato a portare il cane. Adesso viene mia moglie, Magno, che... e via. Vabbè dai, Luca, ci sentiamo, che grazie per le quattro chiacchiere, anche a Claudio se mi ascolto. Io me ne passo in quel ritira, tanto non c'è nessuno stasera. Va bene Natalia, va bene, dai, ok, ci sentiamo, ciao ciao, aspetto, lascia acceso io poi, senta Claudio o Gianni di nuovo, va bene. E anche io lo lascio acceso, rimango in ascolto, però adesso sta arrivando mia moglie.